America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. We have learned that a US drone was confronted by Iranian warplanes over the Persian Gulf. It was a US Predator drone. Avete sentito, un caccia iraniano ha cercato di intercettare un drone americano nelle acque del Golfo. Sono intervenuti due caccia americani per proteggere il drone, hanno lanciato un razzo di avvertimento contro il caccia iraniano, un F-4, e il caccia iraniano si è allontanato. Un close encounter, un incontro ravvicinato, come hanno detto le reti televisive americane, che ha fatto scorrere un brivido sulla schiena di tutti, perché è un po' come se fosse una anticipazione di quel che potrebbe accadere da qui ad alcuni mesi, se per caso ci fosse uno scontro armato contro l'Iran da parte degli Stati Uniti o da Israele, nel caso che l'Iran vada avanti a costruire una bomba atomica. Non è solo una probabilità. Sentiamo il presidente americano. I have been crystal clear about my position on Iran possessing a nuclear weapon. That is a red line for us. Barack Obama, una intervista che ha concesso ieri a Channel 2, una delle reti televisive israeliane. Barack Obama partirà per Israele il 19, farà una visita a Gerusalemme, andrà poi a Ramallah, ad Amman, tutta la settimana dedicata al Medio Oriente. Al centro dei colloqui, ovviamente, il rapporto fra israeliani e palestinesi, l'ipotesi, l'idea che si possa lanciare un nuovo giro di negoziati per la pace. Ma devo dire che su questo argomento non sembrano esserci per ora molte speranze. Molta attenzione invece proprio a quello che dirà Barack Obama su Iran e su Siria. La Siria naturalmente sta vivendo una guerra civile devastante con possibili conseguenze devastanti se non si cambierà regime. Ma è l'Iran a preoccupare davvero, proprio perché potrebbe scatenare una guerra. E Barack Obama è stato molto chiaro. Tutte le opzioni sono sul tavolo, non solo, ha detto il presidente americano. Secondo i nostri calcoli, l'Iran potrebbe avere la bomba atomica entro un anno. Quindi abbiamo, come dire, una window of opportunity, come l'ha definita il presidente americano, una finestra di opportunità per evitare che l'Iran acquisisca la bomba atomica di 12 mesi, altrimenti agiremo di conseguenza. Ecco, agire di conseguenza significa uno sviluppo pericolosissimo per l'intera polveriera medio orientale. Tuesday night at the US consulate in Benghazi, a complex and highly dangerous situation. Altra notizia di ieri. Beh, un uomo sospettato di essere coinvolto nell'attentato al consolato americano di Benghazi è stato arrestato a Tripoli ed è detenuto. Questa è una rivelazione appresa a Washington. Il detenuto, l'arrestato, si chiama Faraj al-Shibli e sembra che sia stato arrestato un paio di giorni fa e che abbia avuto un ruolo centrale nell'organizzare l'attacco al consolato di Benghazi, che ha portato poi all'uccisione dell'ambasciatore americano e all'uccisione di altri due diplomatici americani. Nel frattempo, proprio ieri è stato nominato un nuovo ambasciatore in Libia. È una donna, Deborah Jones, che parla arabo, francese, spagnolo e è uno dei classici diplomatici americani di carriera. Dunque non è uno di quei personaggi che hanno dato i contributi alla elezione di un presidente e come premio vengono nominati in una delle grandi capitali. No, nei posti caldi vanno sempre i funzionari di carriera, che sono persone, devo dire, preparatissime sotto ogni punto di vista. Ma comunque sia, nel radar del presidente americano c'è il rapporto difficile con i nemici dell'America, con coloro che possono rappresentare dal punto di vista di un attacco terroristico di qualche genere una minaccia. In questo viaggio ci sarà molta attenzione, ripeto, non soltanto sul calderone medio orientale strettamente parlando, dunque Israele e Palestina, ci sarà anche una tappa ad Amman, ma ci sarà un quadro più ampio di tutta la regione. America 24. Bene, allarghiamo a un'altra tematica che preoccupa gli americani, il cyber attack, l'attacco terroristico informatico. We have seen steady ramping up of cyber security threats. Some are state sponsored, Some are just sponsored by criminals. But some are state sponsored. Absolutely. Cyberattack, avete sentito il presidente Barack Obama, è uno degli argomenti centrali di questi giorni. Proprio ieri James Clapper, uno dei responsabili dell'antiterrorismo informatico, ha avuto un'audizione in Congresso e ha detto che entro i prossimi 2 anni gli Stati Uniti potrebbero essere oggetto di un attacco devastante che potrebbe metterli in ginocchio dal punto di vista economico. Il presidente, nel discorso dello Stato dell'Unione, ha detto che la questione dell'attacco informatico è uno dei problemi più gravi dal punto di vista della sicurezza militare degli Stati Uniti. E beh, che è successo? È successo che ci sono stati una serie di attacchi in arrivo dalla Cina a gennaio contro il New York Times, poi contro il Wall Street Journal, il Washington Post, poi questi attacchi si sono allargati a Facebook e ad Apple e pochi giorni fa contro la Microsoft. Dunque sembra che ci sia all'interno dell'esercito cinese un'unità dedicata esclusivamente a questi attacchi contro i sistemi informatici americani. Il pericolo è altissimo. Barack Obama 2 giorni fa si è incontrato alla Casa Bianca con 10 amministratori delegati di alcune delle più importanti aziende americane, dalla AT&T alla Electric Power alla Exxon, proprio per cercare di capire come sarà possibile giocare d'anticipo su un rischio di attacco che potrebbe paralizzare il paese. Sembrerebbe di entrare in un contesto fantascientifico, ma non è così. All'interno del Pentagono sono già state organizzate delle unità di contrattacco informatico. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, un compleanno, Liza Minnelli, 67 anni, lo ha celebrato questo suo compleanno con un concerto tutto esaurito ieri notte a New York e si è esibita con Alan Cumming, un vecchio amico, una delle canzoni clou della serata, Cabaret, un classico, Life is a Cabaret di Liza Minnelli. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!